Nolan si era già alzato ed era uscito diretto alla prigione, riteneva la sua padrona di casa. In quel luogo fu costretta ad andare Lois, ripetendo le parole per la vita e per la morte. Ritornando sui suoi passi, fu grata di vederlo uscire da quel tetro portale, reso ancor più tetro dall'ombra che lo avvolgeva mentre lei si avvicinava. Non sapeva cosa lo avesse spinto lì, ma il suo aspetto era serio e triste quando gli mise tra le mani la lettera di Faith e gli rimase davanti in paziente attesa che la leggesse e le desse una risposta. Ma invece di aprirla, la tenne in mano, apparentemente assorto nei suoi pensieri. Infine parlò, ma più a se stesso che a lei. Mio Dio, e allora deve morire in questo stato di spaventoso delirio? Deve essere, può essere, solo il delirio che la spinge a confessioni così selvagge e orribili. Padrona Barclay, vengo ora dall'aver visto la donna indiana condannata a morte. Sembra che la notte scorsa si sia sentita ingannata perché, pur avendo confessato peccati sufficienti a far scendere fuoco dal cielo, la sentenza non è stata sospesa. E credo che la rabbia feroce e impotente di questa creatura inerme si sia trasformata in pazzia, poiché le sue ulteriori rivelazioni ai carcerieri stanotte e a me stamattina mi sgomentano. Mi sembra quasi che pensi di sfuggire a quest'ultima più tremenda pena, confessando colpe sempre più atroci, come se si potesse permettere a una simile peccatrice di vivere, anche se solo una minima parte delle sue parole fosse vera. Eppure, mandarla a morire in questo stato di terrore folle, cosa si deve fare? Ma la scrittura dice che non dobbiamo lasciar vivere le streghe sulla terra, disse Lois lentamente. È vero, ma mi limiterei a chiedere una dilazione sinché le preghiere del popolo di Dio non si siano levate, a implorare la sua misericordia. Qualcuno pregherebbe per quella poveretta. Voi lo fareste, non è vero, padrona Barclay? Ma suo tono era incerto. Stanotte ho pregato per lei molte volte, disse Lois a bassa voce. Prego per lei con tutto il cuore anche adesso. Suppongo che la debbano scacciare dalla terra, ma non vorrei che fosse completamente abbandonata da Dio. Signore, non avete ancora letto la lettera di mia cugina e mi ha chiesto di portarle una risposta con grande urgenza. Ma lui indugiava ancora. Stava pensando all'atroce confessione che aveva appena sentita. Se era vera, la bella terra era un luogo sordido. E avrebbe desiderato morire per sfuggire a quell'ordume ed entrare nella candida purezza di chi era al cospetto di Dio. Improvvisamente i suoi occhi si posarono sul viso serio e pulito di Lois, sollevato a guardarlo. In quell'istante la fede nella bontà di questa terra gli penetrò in cuore e la benedì senza saperlo, scriveva Coleridge nella ballata del vecchio marinaio. Le mise la mano sulla spalla con un gesto quasi paterno, anche se la differenza di età tra di loro non superava una dozzina di anni, e piegandosi lievemente su di lei, sussurrò quasi a se stesso: Padrona Barclay, mi avete fatto del bene. Io? Disse Lois, mezza spaventata. Io ho fatto del bene a voi? E come? Per quello che siete. Ma forse dovrei piuttosto ringraziare Dio per avervi mandata proprio quando la mia anima era così inquieta. Solo allora si accorsero che Faith era ferma di fronte a loro e li fissava con aria torva. Lois si sentì colpevole sotto quello sguardo irato. Non aveva insistito abbastanza col pastore perché leggesse la lettera, pensò, ed era l'indignazione per questo ritardo nella missione affidatale da cui dipendeva la vita o la morte che rendeva così minacciosi gli occhi di sua cugina sotto le sopracciglia nere e dritte. Lois spiegò di non aver trovato il pastore Nolan in casa e di averlo dovuto seguire fino alla porta della prigione, ma Faith rispose, inflessibile e sprezzante: Risparmiati il fiato, cugina Lois. Non è difficile vedere di che belle cose stavate parlando tu e il pastore Nolan. Non mi stupisco della tua smemorataggine. Ho cambiato idea. Restituitemi la lettera, signore. Riguardava una faccenda poco importante, la vita di una vecchia. E che cos'è rispetto all'amore di una ragazza? Lois la sentì. Ma per un attimo non comprese che la cugina, nella sua gelosia rabbiosa, potesse sospettare che tra lei e il signor Nolan esistesse un sentimento come l'amore. Mai fantasie su una possibilità del genere le si erano affacciate alla mente. Lo aveva rispettato, quasi venerato. Le era piaciuto anche come probabile futuro marito di Faith. Al pensiero che la cugina potesse ritenerla colpevole di un tale tradimento, i suoi occhi gravi si dilatarono e si fissarono sul viso acceso d'ira di Faith. Quel modo di fare serio, mite, che nasceva da una completa innocenza, si sarebbe sicuramente imposto alla sua accusatrice se proprio in quell'attimo lo sguardo di quest'ultima non fosse caduto sul viso avvampante e turbato del pastore, che aveva sentito strappare il velo dal segreto del suo cuore inconsapevole. Faith afferrò la lettera che teneva in mano e disse: «Che impicchino la strega, che me ne importa. Di male ne ha fatto abbastanza alle figlie del pastore Tappau, con i suoi incantesimi e con le sue fatture. Che muoia e che tutte le altre streghe stiano in guardia, perché ce n'è parecchie di stregonerie in giro. Cugina Lois, di sicuro vorrai fermarti col pastore Nolan, altrimenti ti pregherei di tornare a casa con me a fare colazione». Lois non era disposta a lasciarsi intimidire dai sarcasmi della gelosia. Decisa a non prendere nota delle parole folli di sua cugina, gli tese la mano per salutarlo come di consueto. Egli esitò prima di prenderla, e quando lo fece, la stretta fu così spasmodica da farla quasi trasalire. Faith aspettava e osservava tutto con labbra serrate e occhi vendicativi. Non salutò, non disse una sola parola, ma afferrando saldamente Lois per il gomito, quasi la spinse davanti a sé per tutto il tragitto fino a casa. Le disposizioni per la mattina erano le seguenti. Grace Hickson e suo figlio Manasseh avrebbero assistito all'impiccagione della prima strega messa a morte a Salem, in qualità di persone devote e pie a capo di una famiglia. Tutti gli altri avevano l'assoluta proibizione di uscire sinché i rintocchi della campana a morto non avessero annunciato che per Hota, la strega indiana, era tutto finito su questa terra. A esecuzione compiuta, ci sarebbe stata una solenne riunione di preghiera per tutti gli abitanti di Salem. Ministri di culto erano giunti da lontano per collaborare con l'efficacia della preghiera allo sforzo di liberare la terra dal demonio e dai suoi servi. Vi era ragione di credere che l'antico, spazioso luogo di riunione sarebbe stato affollato, e quando Faith e Lois arrivarono a casa, Grace Hickson stava raccomandando a Prudence di star pronta per potersi avviare in tempo. La vecchia donna, severa e turbata, pensando allo spettacolo che avrebbe visto di lì a poco, e parlava in modo insolitamente affrettato e incoerente. Era vestita con l'abito della festa, ma il viso era grigio ed esangue, e sembrava non voler smettere di parlare di faccende domestiche per paura di aver tempo per pensare. Manasseh stava accanto a lei, rigidamente, perfettamente immobile. Lui pure portava gli abiti della festa. Anche il suo viso era più pallido del solito, ma aveva un'espressione assente, rapita, quasi come un uomo che abbia una visione. Quando Faith entrò, tuttora stringendo con violenza il braccio di Lois, Manasseh trasalì e sorrise, ma sempre con aria sognante. I suoi modi erano così strani che persino sua madre tacque per osservarlo più attentamente. Era nello stato di eccitazione che solitamente si concludeva in quella che la madre e alcune sue amiche consideravano una rivelazione profetica. Iniziò a parlare da principio sottovoce, poi più forte. «Com'è bella la terra di Beulah, lontano al di là del mare, oltre le montagne. Lì la portano gli angeli, abbandonata nelle loro braccia come chi viene meno. Con un bacio cancelleranno il nero cerchio della morte e la poseranno ai piedi dell'agnello. Laggiù la sento intercedere per coloro che in terra acconsentirono alla sua morte. Oh Lois, prega anche per me nella mia disperazione». Quando pronunciò il nome della cugina, gli occhi di tutte si girarono su di lei. A lei dunque si riferiva la visione. Era lì in mezzo a loro, colpita da un profondo stupore, ma senza manifestare paura o sgomento. Fu la prima a parlare. «Amiche mie, non pensate a me. Le sue parole possono essere vere o possono anche non esserlo. Sono comunque nelle mani di Dio, che lui abbia il dono della profezia o meno. E poi non avete sentito che la mia fine è dove molti vorrebbero fosse la loro? Pensate a lui e alle sue esigenze. Momenti come questi, quando passano, lo lasciano esausto e sfinito». E si diede da fare per recargli il ristoro, assistendo le mani tremanti della zia nel disporgli davanti il cibo di cui aveva bisogno, mentre sedeva stanco e smarrito, tentando faticosamente di mettere ordine nella sua mente sconvolta. Prudence faceva quanto era in lei per dare una mano e farli uscire il prima possibile, ma Faith stava in disparte, osservando in silenzio con occhi appassionati e rabbiosi. Non appena si furono avviati per andare ad adempiere il compito solenne e fatale, Faith lasciò la stanza. Non aveva toccato cibo o bevanda. In verità tutte loro si sentivano profondamente abbattute. Quando sua sorella andò di sopra, Prudence si precipitò verso la panca su cui Lois aveva buttato mantello e cappuccio. «Prestami lo scialle e il mantello, cugina Lois. Ancora non ho mai visto impiccare una donna e non vedo perché non ci debba andare. Me ne starò in fondo alla folla, non mi riconoscerà nessuno e sarò di ritorno molto prima di mia madre.» «No!» disse Lois. «Non lo puoi fare! Mia zia ne sarebbe molto dispiaciuta. Mi meraviglio di te, Prudence, voler assistere a uno spettacolo del genere.» E mentre parlava, teneva stretto il mantello che Prudence cercava disperatamente di strapparle di mano. Faith tornò giù, forse richiamata dal rumore della baruffa. Sorrise. Un sorriso implacabile. «Lascia stare, Prudence. Smettila di litigare con lei. Si è comprata il successo su questa terra. E noi siamo solo due schiave.» «Oh, Faith!» disse Lois, abbandonando la presa e girandosi con occhi e voce carichi di acerbo rimprovero. «Che cosa ho fatto perché tu dica questo di me, dopo che ti ho amata come credo si possa amare solo una sorella?» Prudence non si lasciò sfuggire l'occasione e indossò in fretta il mantello, che era troppo grande per lei e che proprio per questo le era sembrato adatto a non farsi riconoscere, ma mentre si avviava alla porta i suoi piedi inciamparono nell'orlo alla cui lunghezza non era abituata, e cadde picchiando dolorosamente il braccio. «Fai attenzione un'altra volta a non immischiarti in faccende di streghe», disse Faith, quasi non credendo lei stessa alle proprie parole, ma ostile al mondo intero nell'amara gelosia del suo cuore. Prudence si sfregò il braccio e guardò furtivamente Lois. «Strega Lois, strega Lois», disse infine adagio, esprimendo suo astio di bambina con una boccaccia. «Oh, zitta, Prudence, non giocare con queste parole tremende. Fammi vedere il braccio. Mi dispiace che ti sia fatta male, anche se sono contenta che questo ti abbia impedito di disubbidire a tua madre. Vattene via!» disse Prudence scappando da lei. «Mi fa paura, veramente, Faith. Stai tra me e la strega, altrimenti le tiro uno sgabello.» Faith sorrise. Era un sorriso cattivo, malvagio, ma non fece nulla per calmare le paure che aveva suscitato nella bambina. Proprio in quel momento cominciò a suonare la campana. Hota, la strega indiana, era morta. Lois si coprì il viso con le mani, persino il pallore di Faith si fece mortale e disse sospirando: «Povera Hota, ma la morte è meglio di tutto.» Solo Prudence sembrava insensibile ai pensieri evocati dal suono solenne e monotono. La sua unica considerazione era che a quel punto poteva uscire in strada e vedere ogni cosa e sentire le novità e sfuggire al terrore che provava in presenza della cugina. Si precipitò di sopra a prendere il suo mantello, ritornò giù correndo ed era già passata davanti a Lois prima che la ragazza inglese finisse la sua preghiera, e velocemente si confuse tra la folla diretta al luogo di riunione. Tempo debito si avviarono anche Faith e Lois, ma separatamente, non insieme. Faith così apertamente la evitava che Lois, addolorata e umiliata, non poté imporre la sua presenza alla cugina, ma rimase un po' indietro. Lacrime silenziose le scendevano piano sul viso, versate per tutti gli eventi verificatisi quella mattina. Il luogo di riunione era gremito da soffocare. E come a volte accade in situazioni simili, la folla più numerosa si raccoglieva vicino alle porte, poiché pochi riuscivano a vedere, appena entrati, se vi fossero ancora spazi liberi in cui introdursi, e tuttavia, infastiditi da chi ancora arrivava, impazientemente spingevano in avanti Faith e dietro a lei Lois, sinché le due ragazze finirono in un buon posto proprio in mezzo all'edificio, dove non vi era la possibilità di mettersi a sedere, ma vi era ancora spazio per stare in piedi. In quel punto si era radunata molta gente, poiché il pulpito si trovava al centro e vi erano già saliti due ministri in baverina e abito calvinista, mentre alcuni altri, abbigliati allo stesso modo, vi si tenevano stretti come se fossero lì a dar sostegno piuttosto che a riceverlo. Grace Hickson e il figlio sedevano dignitosamente nel loro banco, dimostrando in questo modo di essere giunti per tempo dall'esecuzione. Dall'espressione sui visi si sarebbero quasi potuti distinguere coloro che avevano assistito all'impiccagione della strega indiana. Il timore reverenziale li segnava con un senso tremendo di quiete. La folla degli assenti all'esecuzione, che continuava a riversarsi all'interno, esprimeva invece irrequietudine, eccitazione e violenza. Da ogni parte si cominciò a mormorare che il ministro sconosciuto in piedi accanto al pastore Tappau, altri non era che il dottor Cotton Mather in persona, venuto sin dalla lontana Boston per portare il suo sostegno a Salem nella purificazione dalle streghe. Il pastore Tappau iniziò a pregare improvvisando, secondo la consuetudine. Le parole erano selvagge e incoerenti, come era naturale in un uomo che aveva appena consentito alla morte violenta di chi solo pochi giorni prima faceva parte della sua famiglia. Violente e appassionate, come era prevedibile in un padre, convinto che le sue bambine soffrissero in modo così atroce a causa del crimine che voleva denunziare davanti a Dio. E quando infine si sedette, fu perché era completamente spossato. Poi si fece avanti il dottor Cotton Mather. Non disse che poche parole di preghiera, calme, si era affrontate a quanto le aveva precedute, e proseguì rivolgendosi alla gran folla radunata dinanzi a lui con argomenti lucidi e pacati, ma organizzando il discorso con una sorta di abilità affine a quella di Antonio nella sua orazione ai Romani dopo l'assassinio di Cesare. Alcune delle parole del dottor Mather si sono conservate fino a noi grazie alla loro successiva trascrizione in una delle sue opere. Riferendosi ai sadducei miscredenti che mettevano in dubbio l'esistenza di quel crimine, disse: invece di badare ai loro sberleffi, ai loro gridi di scimmie contro la scrittura benedetta e contro storie fornite di tale inconfutabile evidenza da non poter essere messe in dubbio da chi abbia quel minimo di istruzione che gli basti per tener conto del diritto consuetudinario della società umana. Pensiamo piuttosto ad adorare la bontà di Dio che dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti ha voluto si traesse il vero e che attraverso la sofferenza tremenda delle bambine del vostro pio pastore ha rivelato che sulla vostra terra si sono scatenati i diavoli con gli atti più orrendi. Supplichiamolo perché il loro potere si possa domare e non arrivino nelle maligne macchinazioni al punto in cui giunsero solo 4 anni fa nella città di Boston, quando fu l'umile strumento nelle mani di Dio per liberare dal potere di Satana le 4 figlie di quel sant'uomo del signor Goodwin. Le 4 creature della grazia erano state stregate da una strega irlandese. I tormenti a cui furono sottoposte sono inenarrabili. A volte abbaiavano come cani, altre facevano le fusa come gatti, sì, e volavano come oche, trasportate da una velocità incredibile, toccando terra solo di tanto in tanto, talora neppure una volta su un tratto di 20 piedi, agitando le braccia come fossero uccelli. Eppure vi erano momenti in cui, a causa degli stratagemmi diabolici della donna che le aveva stregate, non potevano muoversi senza zoppicare perché con una catena invisibile ostacolava i loro arti, o a volte mancava poco che le strozzasse con un cappio. Una in special modo era sottoposta da questa donna di Satana a un calore talmente forte come di un forno che io stesso l'ho vista grondante di sudore, mentre tutti gli altri intorno si sentivano bene e avevano la pelle fresca. Ma senza importunarvi oltre con le mie storie, vengo ora a dimostrarvi che era Satana stesso ad averla in suo potere. Infatti, era degno di nota che lo spirito maligno non le permettesse di leggere libri devoti o sacri, veridici e conformi alla parola di Gesù. Riusciva benissimo a leggere i libri papisti, mentre invece la vista e la parola sembravano venirle meno quando le porgevo il catechismo puritano. Poi di nuovo si appassionava al libro delle preghiere, la versione inglese d'empia del libro della messa cattolica romana. Se qualcuno le metteva in mano quel libro mentre soffriva, ne era sollevata. Eppure, badate bene, non ci fu modo di indurla a leggere il Paternostro in qualunque libro lo trovasse, dimostrando così inconfutabilmente di essere complice del diavolo. La portai in casa mia per poter combattere con Satana e colpirlo, come fece il dottor Martin Lutero. Ma quando riunii in preghiera i membri della mia famiglia, i diavoli che la possedevano la fecero fischiare, cantare e urlare con versi striduli e infernali. Proprio in quell'istante un fischio acuto e nitido trafisse le orecchie di tutti. Il dottor Mather tacque per un attimo. «Satana è in mezzo a voi!» gridò. «State in guardia!» E si mise a pregare con fervore, come se un nemico pericoloso fosse lì presente, ma nessuno gli badò. Da dove era venuto quel fischio innaturale e sinistro? Ognuno sorvegliava il proprio vicino. Di nuovo quel fischio proprio in mezzo a loro, e poi un trambusto in un angolo dell'edificio. Il movimento di 3 o 4 persone senza un motivo apertamente percettibile da chi si trovava a una certa distanza. Il movimento si estese e subito dopo, nella massa, pur così fitta di persone, si aprì un varco per far passare 2 uomini che portavano a braccia Prudence Hickson, rigida come un pezzo di legno, contratta e contorta come chi è colpito da un attacco epilettico. L'adagiarono in mezzo ai ministri raccolti intorno al pulpito. Si avvicinò la madre, che lanciò un grido disperato alla vista del corpo contorto della sua bambina. Il dottor Mather scese dal pulpito e, sovrastandola, cominciò a esorcizzarla dal diavolo che la possedeva, come se fosse abituato a scene del genere. La folla premeva in avanti, muta dal terrore. Infine, la rigidità del corpo e del viso si rilassò e fu assalita da convulsioni tremende. Lacerata dal demonio, si diceva allora. Dopo qualche tempo la crisi violenta finì e gli spettatori ripresero fiato, anche se l'orrore di poco precedente ancora li opprimeva, e stavano in ascolto, quasi aspettandosi di risentire il fischio funesto, e si guardavano intorno impauriti, come se alle loro spalle Satana stesse scegliendo una nuova vittima. Nel frattempo, il dottor Mather, il pastore Tappao e qualche altro esortavano Prudence a rivelare, se poteva, il nome della persona, della strega, che intercedendo presso Satana aveva assoggettato la bambina alla tortura tremenda di cui erano appena stati testimoni. Le intimarono di parlare nel nome del Signore. Sussurrò un nome, con voce flebile dall'estenuazione. Tra la folla nessuno riuscì a sentire qual era, ma il pastore Tappau, che lo sentì, arretrò sgomento mentre il dottor Mather, non sapendo a chi appartenesse quel nome, gridò, con voce nitida e fredda, «Conoscete una certa Lois Barclay? Perché è lei che ha stregato questa povera bambina!» Furono gli atti più che le parole a fornire la risposta, anche se si misero a mormorare in molti. Ma furono tutti a scostarsi, per quanto una simile calca lo permetteva, dal punto in cui si trovava Lois, guardandola stupefatti e inorriditi. Uno spazio di alcuni piedi, dove un attimo prima la possibilità di uno spazio era inconcepibile, si fece intorno a Lois, in piedi, sola, con tutti gli occhi fissi su di lei, carichi di odio e terrore. Stava lì, senza parole, ammutolita, come in un sogno. Lei una strega, maledetta come tutte le streghe, agli occhi di Dio e degli uomini. La sua pelle, liscia, sana, si fece pallida e rugosa, ma non disse una sola parola e rimase a fissare il dottor Mather con occhi dilatati dal terrore. Qualcuno disse: «Appartiene alla casa di Grace Hickson, una donna timorata di Dio». Lois non sapeva se queste parole erano in suo favore o no. In realtà non si soffermò a esaminarle. Per lei significavano meno che per tutti gli altri. Lei, una strega. E lo scintillio argentato dell'Avon, e la donna che annegava vista nell'infanzia a Bedford, a casa, in Inghilterra, tutto era di fronte a lei, e abbassò gli occhi davanti al suo destino.